Io sono ignorantissimo, e un poco, lo ammetto, me ne vergogno, sono ignorantissimo in materia di commercio internazionale. Non mi sono mai interessato a problemi tariffari e o doganali, ho un'idea vaghissima di che cosa indichi la sigla GATT, G-A-T-T, e non saprei proprio come definire il contenzioso che appunto in tema di tariffe doganali ha opposto nelle settimane scorse i paesi della Comunità Europea al governo degli Stati Uniti. Mi è sembrato di capire che quest'ultimo governo abbia deciso di imporre dei forti dazi doganali sui prodotti europei di importazione, che è una cosa credo deplorevolissima, ma che tuttavia si fa ogni tanto, e che la controparte abbia minacciato adeguate ritorsioni, poi tira da una parte, spingi da un'altra, si sia giunti a una qualche forma di compromesso che ha accontentato tutti tranne i temibili contadini francesi, che hanno minacciato di resistere alla prevaricazione americana fino all'ultima tartina di fegato d'oca e all'ultima bottiglia di Beaujolais Nouveau. Come sia finita non lo so, probabilmente si saranno accodati al compromesso anche loro, anche se oggi a Strasburgo credo che ci fosse una manifestazione a cui c'erano anche i giapponesi, però che non ho capito cosa c'entrino. Però l'episodio mi è interessato perché io ho sempre pensato che tra le varie esacerbazioni nazionalistiche che affliggono questo mondo travagliato non ce n'è nessuna, neanche la rivalità tra serbi e croati o quella tra i vatussi e i bauto, paragonabile per intensità e acrimonia ai sentimenti che il francese medio nutre per gli americani. È vero che gli Stati Uniti d'America sono nati anche grazie all'aiuto francese due secoli fa e all'intervento del leggendario marchese de Lafayette. E in occasione del primo centenario della loro proclamazione il popolo francese ha donato a quello americano un orrore come la Statua della Libertà, ma forse proprio per questo è nato il problema. Il francese medio ha sempre avuto l'impressione che l'America non dimostrasse adeguatamente la propria gratitudine. E la pretesa americana di essere la prima potenza mondiale solo perché prepara dal punto di vista politico, economico, industriale e militare ai compatrioti del marchese di Lafayette non è mai andata giù. Vabbè. Voi direte che probabilmente tutto ciò è rilevante. La contrapposizione tra Europa e America è un elemento classico oramai dell'immaginario europeo e anche di quello americano, forse ancora di più. Ha prodotto a iosa film, barzellette, leggende metropolitane, una quantità di sociologia spicciola, persino delle opere ascrivibili alla cultura alta, tra virgolette, come i romanzi di Henry James. Ai tempi della nostra giovinezza, mia della Came, dico, l'antiamericanismo aveva qualche valenza politica positiva che io confesso anche di aver condiviso, ma non credo che oggi sia il caso. Non so esattamente che forza sociale esprimino oggi i contadini francesi, ma sono sicuro che non sono quelli che una volta univano le loro falci ai martelli degli operai sulle bandiere rosse della rivoluzione, e neanche i figli della generazione del Vietnam. E in effetti, come avete notato, non hanno espresso la loro protesta con attacchi a consolati, loghi di bandiere, marce sulle basi militari americane, che in Francia peraltro scarseggiano, ma con la devastazione dei locali McDonald's a Parigi e altrove e con l'occupazione della fabbrica di Coca-Cola nell'Essonne. La scelta, comunque, è interessante. È un po' bassa forse sul profilo politico, ma è abbastanza significativa su quello simbolico. La contrapposizione in nome di quanto si mangia, di come lo si mangia, sarà forse meno nobile di quella in nome della democrazia o dell'alta cultura, ma funziona altrettanto bene, se non meglio, soprattutto in un paese come la Francia, in cui il vizio capitale, come credo che osservasse già nel 1956 Roland Barthes in Mythologie, credo che in Italia l'abbia pubblicato la Came stesso nel 62 col titolo di Miti d'oggi, in cui il vizio capitale è quello della gola. E poi dal cibo o dal modo di consumarlo nulla vieta di risalire a dei valori meglio piazzati sul mercato della cultura. Sempre Roland Barthes insegnava che la rigida uniformità di arredamento dei prodotti delle varie catene di fast food, ma questa è un'estrapolazione comunque, che questa vigile uniformità rimanda con grande facilità l'appiattimento generale della personalità al conformismo indotto dalla società di massa e a tutte queste cose qua. Cosa c'è di più banalmente americano è dell'associazione degli hamburger con le bevande gassate e dei tipici locali rosso e gialli in cui in Francia come in Alaska, in Nebraska o nel Nuovo Messico entrambi i prodotti si spacciano. Ecco, In realtà sembra proprio che di americano in quegli hamburger e in quella Coca-Cola non ci sia quasi niente. La società che gestisce la catena di fast food in questione ha pubblicato un annuncio a pagamento su 64 quotidiani francesi per spiegare che nessuno può vantare meriti patriottici maggiori a quelli della McDonald's in Francia. Loro comprano le patate in Piccardia e nella regione del centro, l'insalata in Languedoc-Roussillon e la carne esclusivamente presso gli allevatori dell'Auvergne, della Bretagna, della Borgogna, della Champagne, della Franche-Comté, dei Midi-Pyrénées, della Normandia, del Pays de Loire e della Rhône-Alpes. Anche la Coca-Cola ha organizzato in tutta fretta una conferenza stampa per spiegare che, malgrado le apparenze, il suo prodotto è francese al 100%, non permettendosi ai suoi dirigenti di rifornirsi di zucchero e degli altri ingredienti della segretissima formula altrove che nella madre patria. Quanto ai profitti, per non dire della creazione di posto di lavoro, ma quanto ai profitti si intende che restano rigorosamente in Europa a vitalizzare l'economia nazionale e contemporaneamente quella comunitaria. Ecco, è tutto vero probabilmente ed è tutto assolutamente inutile, perché sappiamo tutti che ovunque comprino le loro patate e il loro zucchero, quelle organizzazioni restano irrimediabilmente americane. E lo resterebbero anche se inalberassero il tricolore sopra ogni cassa e se i registratori tintinnassero le note della Marsigliese. Ma questo, se ci pensiamo bene, non vuol dire assolutamente niente. In Italia non c'è ancora, ma in Francia e anche negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e altrove, esiste una catena, diciamo così, di fast food per la prima colazione che ha per simbolo la Marianna con la coccarda tricolore, arreda i suoi locali e veste i suoi inservienti rigorosamente in bianco, rosso e blu, e si chiama in francese la Croissanterie, e anche se ignoro a chi appartenga, non c'è proprio modo di distinguerla culturalmente dai McDonald's. E se volete un esempio un po' meno evidente, pensate agli ultimi tre ristoranti cinesi in cui siete andati a cena qui a Milano. Sicuramente non appartenevano a una catena internazionale e con tutta probabilità erano a conduzione familiare singola, però i menù erano rigidamente gli stessi, dal numero 1 involtini primavera spring rolls al numero 80 mele banane fritte Chinese fried fruit, e l'arredamento, se apparentemente era diversificato, in definitiva risultava dalla composizione delle stesse lanterne rosse, degli stessi draghi di plastica, degli stessi bassorilievi con la regina del vento. Il fatto è che, naturalmente, a spingere per l'uniformità dell'arredamento, dell'assortimento e della preparazione del cibo in questi e simili locali non è né un vezzo né un effetto dell'egemonia culturale di qualcuno che chissà perché di suo ha delle forti tendenze a uniformazione, ma l'esigenza organizzativa ed economica della società e del modo di produzione validi qui, negli Stati Uniti, e prossimamente, a quanto ci dicono tutti, anche in Cina. Non è detto che questa società e questo modo di produzione debba piacerci, a me per esempio non piace, ma ho il sospetto fortissimo che le contrapposizioni nazionali, in nome del cibo quando il cibo c'è, in nome di qualcosa d'altro quando bisogna arrangiarsi con il problema della lingua o con quello della religione come nella ex Jugoslavia, siano soprattutto forme di diversione. Ma questo, naturalmente, lo sapevate già. Leggo che a Milano la McDonald's è in trattativa per acquistare un celebre ristorante nella galleria Vittorio Emanuele. Si sono già registrate proteste da parte dei difensori della cultura, del paesaggio urbano e della tradizione milanese, nonché un impegno rigidissimo fino alla morte dell'assessore De Carolis e del sindaco Borghini a far sì che, ove l'affare vada in porto, in nulla sia turbato il quadro gastroculturale cittadino. Accettiamo scommesse su come andrà a finire.